9. Ascolta e controlla. Mina, Rosa, Carl e Sandro sono al lago. Sandro ha una mappa della città, ma è vecchia. La mappa di Rosa è nuova. Sandro ha una casa vicino al lago. Mina ha una macchina fotografica da molto tempo. È una buona macchina, ma Mina ha bisogno di batterie per scattare molte foto. La tabaccheria è vicina e la domenica è aperta fino a mezzogiorno. Mina è in tabaccheria per comprare le batterie. Carl ha i panini, i biscotti e una bottiglia di acqua. I ragazzi hanno bisogno di poco tempo per preparare un po' di pasta.